Radio 24 Reportage. New Beats, i nuovi Made in Italy, di Stefano Totoro. Hanno fra i 30 e i 40 anni, una grande passione per la moda, sfidano la crisi ed entrano da nuovi attori in un mercato che soffre. Marco Bisato, l'azienda è Kio Lab. Enrico Baffetti, Rico. Mario Pastorini, In The Box. Mi chiamo Matteo Marziali e il nome del marchio è Playat. Ciao, sono Stefano Fabrizi, vengo da Senigallia. Casa di colori e carta. E Valerio Farina, titolare del brand numero 00. Marchi e nomi emergenti sconosciuti ai più. Le storie che raccontano i neo imprenditori del fashion fra gli stand dell'84esima edizione di Pitti Uomo sono storie coraggiose, a volte con esordi agevolati, altre volte più duri, ma comunque realtà piene di idee, creatività e appunto un grande coraggio. Sostanzialmente abbiamo investito nelle idee, perché poi grandi investimenti economici non abbiamo potuto fare e tuttora non potremo fare. Non siamo un'azienda giovanissima. Credo che oggi noi dobbiamo fare questo senza guardare troppo un obiettivo di risultati in termini di redditività che poi arriverà. Allora, l'investimento iniziale non è stato altissimo, anche perché ho un'azienda di famiglia e quindi prodotto interno e non ho avuto grandi difficoltà, diciamo, nel cercare produzione o nell'acquisto di filati, però comunque è stato un investimento comunque importante sia per quanto riguarda la ricerca che per quanto riguarda la distribuzione. Ero io insieme a un mio caro amico che fa il collezionista d'arte, io ho un'azienda d'abbigliamento da 30 anni a mia famiglia, per cui abbiamo unito quelle che erano le nostre passioni. È capitato, perché la vita a volte ti porta proprio, cioè non si possono fare scelte, c'è questo e basta. Prima facevo cappelli da baseball a Ibiza, poi sono venuto in Italia e sono arrivato al mondo delle scarpe. È nato tutto per scherzo, diciamo, eravamo sulle spiagge di Formentera, per gioco abbiamo iniziato a fare delle t-shirt che proponevamo alle nostre feste. Dopodiché abbiamo visto che ricepivano un grande interesse e di conseguenza abbiamo proseguito e abbiamo messo su una produzione. Ricordo il nostro primo magazzino, eravamo dentro un garage e l'ufficio era sopra una lavatrice. Allora, siamo nati nel 2010 con un'idea di fare una capsule di t-shirt, di circa 10 t-shirt. Non ho pensato tanto al fatto che aprire un brand e cominciare a buttarsi sul mercato adesso poteva essere una cosa abbastanza difficile. L'ho fatto e basta, senza pensarci, senza nessun tipo di indecisione. Disegnano, producono, distribuiscono e vendono chi t-shirt, chi calzini, chi pantaloni o scarpe. Sono entrati nel mondo della moda in un momento in cui i numeri del mercato non sono affatto incoraggianti. In Italia, negli ultimi 3 anni, le vendite nel settore hanno registrato continue flessioni. Anche se si inizia a parlare di una leggera ripresa, lo scorso anno le vendite nel settore moda hanno registrato una flessione di circa il 6%. Perché quindi iniziare un'avventura in piena crisi? Paradossalmente abbiamo avuto questa idea nel momento peggiore di mercato, ma anche con dei risultati che vanno proprio in controtendenza. È stata apprezzata subito, fin dall'inizio, con le prime calze camouflage, le prime calze con i teschi, e da lì abbiamo poi allargato tutta la collezione. Sicuramente un momento di crisi è un momento di opportunità e ho pensato di dare una nuova vita alla maglieria attraverso fili, attraverso tendenze nuove, di creare una nuova linea più sportiva, più divertente, più moda, insomma. Ma in realtà quando insomma ci sono delle crisi si aprono anche degli ampi spazi. Io credo che siamo dei ragazzi giovani e sia giusto comunque intraprendere delle nuove, credere nelle proprie idee e buttarsi. Tutte le persone, tutti i rappresentanti dicono che se c'eravamo 10 anni fa sarebbe stato un boom molto più veloce. Invece io dico che in un momento come questo il consumatore sta molto attento a quello che compra. La particolarità dei neo imprenditori della moda è che tutti credono nella qualità del prodotto italiano. Ognuno di loro ha fatto del Made in Italy la propria bandiera, nonostante i grandi competitor spesso delocalizzano la produzione in posti remoti e con costi di produzione di gran lunga inferiori. E nonostante in Italia le difficoltà persistano. Perché produrre in Italia abbiamo un know-how di qualità e tradizione che nessun'altra parte del mondo si riesce a trovare. Anche se ci sono molte difficoltà con quantitativi, con minimi, con tempistiche, Perché scegliete l'Italia per produrre? Perché crediamo che l'Italia sia ancora un polo importante, qualitativo. Vogliamo cercare di lavorare con, fra l'altro collaboriamo con dei produttori, dei ragazzi che hanno la nostra età, per cui è un modo anche per aiutarci a vicenda, insomma. Il fatto di avere un progetto con, che parte da idee di ragazzi italiani e realizzato qua in Italia abbia un valore anche per il mercato estero. Forse qui non avremo dei margini come potremmo avere in questo momento in Far East o in altre nazioni rispetto all'Italia, però puntiamo sulla qualità, che credo che in questo momento sia quello che ci sta premiando. È molto difficile perché lo Stato non ci aiuta, le banche, ma siamo rimasti in Italia perché se vogliamo uscire dalla crisi dobbiamo capire che dobbiamo comprare prodotti fatti interamente in Italia. Vogliamo dare, diciamo, lavoro, chiamiamolo così, alla nostra terra, Marche, Emilia Romagna e via discorrendo, quindi cerchiamo di fare tutto quello che possiamo naturalmente in casa. È un dato positivo, è una fiducia nei confronti di un paese, il proprio, in cui spesso, soprattutto negli ambienti più giovani, si fa fatica a credere. In Italia si produce, ma lo sguardo al mercato estero è dovuto, perché sempre i dati del settore moda ci dicono che il mercato regge soprattutto per un fattore, quello dell'export, in continua crescita. L'Italia per me rimane una grandissima vetrina, però dal punto di vista finanziario, per quello che riguarda anche le tensioni finanziarie, nel senso è sempre più difficile incassare, i tempi di pagamento diventano sempre lunghi, per cui l'estero per noi diventa un importante perché è solidità dal punto di vista economico. Stiamo avendo contatti molto importanti per lo sviluppo per l'estero, anche se poi siamo un po' in controtendenza perché anche sul mercato italiano in due stagioni abbiamo un parco clienti molto ricco, molto importante. Imprenditori attenti, con idee nuove, ancorati al territorio e con grande attenzione alla ricerca e all'innovazione. Ma, come ogni campo, anche quello della moda presenta grandi difficoltà, soprattutto quando si è agli esordi, soprattutto quando si convive, avendo poca esperienza, con la paura di sbagliare. Le scelte che un brand deve fare a volte possono essere giuste, ma come possono essere anche sbagliate, sia dal prodotto, da quando esce una collezione, fino ad arrivare alla scelta della distribuzione, fino ad arrivare alla pubblicità, fino a tutto quello che fa parte del mondo della moda. Beh, la difficoltà più grande che abbiamo avuto dall'inizio è stata quella di costruire una distribuzione che credesse in noi, perché è molto difficile, partendo da zero, in momenti così confusi, trovare degli agenti, degli showroom che inizialmente credono nel tuo prodotto, puntano sul tuo prodotto. Quella credo che sia stata la cosa in assoluto più difficile. La più grande sono state le banche che vogliono assicurazioni su assicurazioni per anticipare i soldi che i negozianti ci danno, però come sappiamo in Italia i pagamenti sono 60, 90, 120, 150, quindi un'azienda che vuole immettersi nel mercato o ha delle forti assicurazioni con le banche oppure arriva a un certo punto, più aumentano le quantità e le paia e se dopo non ci sono i soldi per anticipare, per comprare le materie prime, ecco qua che si chiude con i numeri in positivo. Ma gli stand di Pitti Uomo si sono ricavati un proprio spazio espositivo, sono tutti insieme, come a far gruppo, ma i nuovi imprenditori sono circondati dai grandi marchi, da chi ha una storia trentennale, da chi nella moda ormai è decisamente affermato. E allora è necessario sfidare i big, e come? Cercando di fare qualcosa di diverso, non copiandole credo, cercando comunque di seguire le cose che fanno magari giuste dal punto di vista organizzativo, però con le proprie idee, con della passione e poi sicuramente con tanto tanto lavoro, ma non è una sfida, credo che noi dobbiamo soltanto cercare di cavarci la nostra nicchia, poi se un domani diventeremo importanti vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Si compete, come stavo dicendo adesso, con ricerca, con idee, con magari cose originali e soprattutto noi puntiamo, come dicevo prima, sull'innovazione ma anche sulla creazione di prodotti che oggi sul mercato, ad esempio parlando di calze in generale, non esistono. Ma noi non sfidiamo nessuno, noi abbiamo la nostra strada e crediamo nella qualità. I big che cominciano un attimino a guardarci, a osservarci, che magari indirettamente vogliono metterci il bastone fra le ruote, questo sì, purtroppo questo sì, ma noi andiamo avanti per la nostra, sorridendo, divertendoci. Ma oggi come oggi non ho mai pensato di sfidare un big, assolutissimamente, perché comunque sfidare un big vuol dire, non so, che chi già si è montati la testa. Io penso a fare il mio lavoro, andare dritto per la mia strada e basta. Poi se quello che faccio io piace alla gente, bene, se non piace non so che fare. Sfidare i grandi dunque per molti dei nuovi imprenditori non è una priorità e nemmeno una necessità. Ognuno tende a ricavarsi la propria nicchia di mercato, a percorrere la propria strada cavalcando creatività e coraggio. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.